Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno. E così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.